Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno e bentornati al meglio di Summertime, in onda il sabato alle 16.30 e la domenica alle 8.30, dove riproponiamo le interviste andate in onda durante quest'ultima settimana di programmazione estiva. In tournée durante tutta l'estate, Roberto Vecchioni, che abbiamo sentito prima del suo concerto a Rapallo lunedì 27 agosto. Il buio non esiste, cioè è una finzione, il male, la cattiveria, l'orrore si possono battere sempre. La vita è sempre fatta di colori, di luci. Basta appendersi a questi colori che sono amici, ricordi, eccetera, e si passa tutto. Quindi è un messaggio di speranza dopo 40 anni che suoni, quindi non hai perso la speranza. No, io ce l'ho sempre avuta, ma se io ogni tanto scrivo delle canzoni in cui mi commuovo oppure faccio commuovere qualcuno, sono sempre canzoni in cui però alla fine c'è un brivido di luce, un pezzettino, perché mi sembra piuttosto inutile dire ai ragazzi tutto il mondo è uno schifo, eccetera, eccetera. Bisogna cercare di trovare le cose che possono andare bene o migliorare quelle che non vanno bene. Senti, questo tuo, diciamo così, pedagogia, no? Anche nelle tue canzoni è dovuto al fatto che per tanti anni hai insegnato, o perché magari vuoi semplicemente dare una speranza in quest'Italia che molto spesso non ce l'ha? La situazione di oggi, vabbè, è più che altro finanziario il problema, però è anche culturale, diciamoci la verità, perché stiamo perdendo la cultura, se ne va proprio, però il tema è sempre attuale per noi italiani, perché siamo stranissimi, perché non ci fidiamo uno dell'altro, perché facciamo i furbi, per tante cose, però in fondo abbiamo un'intelligenza che nessuno ha, abbiamo una sensibilità che nessuno ha, e anche un entusiasmo, perché lo vedo da 40 anni nei ragazzi, negli studenti, l'entusiasmo c'è, basta non toglierglielo. Senti, tu la prossima stagione sarai uno degli insegnanti ad Amici di Maria De Filippi. Allora, questa è una cosa che tutti danno per scontata. No, allora ci stai ripensando. Ho appena detto una cosa, ho appena accennato a quel fatto, è diventato ufficiale. No, era una proposta ufficiale, mi è stato ventilato di poter fare una cosa del genere. E sia chiaro, non vado a cantare ad Amici, a concorrere ad Amici, non perché ritenga una cosa indegna, ma perché non è il mio campo. Io andrei a tentare di parlare delle belle canzoni che sono state scritte in Italia ai ragazzi e ai concorrenti, perché purtroppo molti concorrenti sono bravissimi, ma gli manca quel po' di emozione, quel po' di spirito, e poi devono sapere la storia della canzone italiana per cantare altre canzoni nuove. Questo potrei fare se mi danno un contratto. Però per il momento è tutto ancora campato in aria. Non pensi che Amici sia un po' una televisione trash? No. Non ho paura delle televisioni cosiddette trash. Non direi, soprattutto se avendo io, potendo avere io uno spazio mio, per cui non c'entro con la gara e altro. Io anzi tento di dare un senso al trash. Cioè, non fate trash, fate canzoni belle. Ma ecco, una caratteristica del nostro tempo, no? È questo fatto che le canzoni, almeno, però non so, poi si è sempre detto, magari sono un po' ripetitive, non ci sono più cantautori, i giovani ragazzi è difficile che emergano, e soprattutto vogliono subito arrivare a cantare, però magari non compongono oppure non si applicano in tutti e due i campi. Perché? Sì, hai ragione, hai già dato le risposte tu, però parlando così, perché sì, è in troppi, perché è diventato un fatto nazionale dover cantare, se uno non canta non è nessuno, nei due campi fondamentali in cui si sbattono, anzi sono tre, si sbattono i giovani nostri, sono uno naturalmente il calcio, l'altro la canzonetta e l'altro il velinismo, quello che chiamo io velinismo, uno deve essere per forza gnocchi e andare in televisione. Queste sono le tre cose che si possono fare anche bene, in fin dei conti, o meglio, ma la maggior parte della gente pensa che sia tutta roba facile e che basti presentarsi per fare successo, invece per fare successo ci vogliono anni e anni. Dimmi tu dei nomi usciti da X Factor o da Amici, per esempio, che abbiano resistito più di tanto, due o tre in 15 anni, non è molto difficile, è una cosa complicatissima. Sì, ma poi anche il velinismo, come l'hai chiamato tu, no? Non è che per forza, per essere felici o per avere una vita equilibrata, bisogna fare televisione. No, al contrario, è proprio Cioè, si può esattamente il anche andare a contrario. scegliere un lavoro normale, come direbbe Nanni Moretti, no? Che cosa c'è di male di andare a lavorare in banca, per Ma dire? naturalmente o fare il parrucchiere oppure fare il tabaccaio, va benissimo. Poi i tuoi hobby te li coltivi a casa, ma questo è normale. Ma è purtroppo tutta una società, è un modo di vivere edonistico, e questo lo sai anche tu, Elisabetta, lo sappiamo tutti, che convince i ragazzi che se non fai così non sei nessuno. E invece non è anzi, molto spesso proprio se fai così non sei nessuno, perché diventi un numero in mezzo a tutti gli altri. Qual è la tua canzone che in questo momento, secondo te, dedicheresti ai ragazzi del nostro paese, in Ma questo è momento quella che storico? avete mandato prima. Questa è quella lì. Quella Allora, ci andava abbiamo benissimo. azzeccato. Che devono sognare. Hanno perso la capacità di sognare. Beh, gliel'abbiamo tolta anche noi molto, eh. Devo dire che loro poverini vorrebbero sognare. Però bisogna dargli continuamente forza ai ragazzi. Al Narni Black Festival ha partecipato martedì 28 agosto una delle pianiste italiane più importanti della scena jazz, Rita Marco Tulli. Le abbiamo chiesto come si fa ad essere pianista, jazzista e donna in Italia. Ho fatto un percorso abbastanza vasto, sono stata fuori dall'Italia, ho girato in Scandinavia, in Francia, un po' dappertutto e devo dire che poi alla fine comunque ho sempre avuto dei musicisti che mi hanno in qualche modo stimato e apprezzato, perché poi credo che la musica, come tutta l'arte, non abbia il sesso, invece l'importante è un mezzo di espressione, per cui se a chi comunica con le parole, chi comunica con le note. In questo caso io sono anche compositrice e quindi cerco di comunicare non solo l'improvvisazione come jazzista, ma in realtà anche mi reputo abbastanza compositrice, infatti appunto il film di Basilicata, poi le musiche le avevo curate io. In questo caso non so se poi uno può riconoscere se è un uomo o una donna che scrive qualcosa, quindi alla fine l'importante è quello che esce, no? Ed esce molto bene. Allora, noi sappiamo, nella tua carriera tu hai anche fatto, oltre questo Basilicata Coast to Coast, abbiamo sentito Maria Teresa, e hai fatto anche un omaggio al cinema di Truffaut e anche alla musica dei Pink Floyd. Quindi, Sì. insomma, veramente, come dicevi, spazi, ami Ma sì, spaziare. in realtà, certo, perché credo che appunto per chi voglia appunto comporre o comunque scrivere deve avere delle suggestioni, delle emozioni, non è che uno traduce in note e deve tradurre qualcosa, no? Quindi sicuramente la mia curiosità è aperta a tutte le forme d'arte e quindi in questo caso sicuramente il cinema è stata la mia seconda passione, anche perché nasco, cioè da piccina andavo spesso a vedere mio padre che era un tecnico del suono. Di compositori di musiche da film come Ennio Morricone, Nino Rota, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente questo amore per il cinema forse in qualche modo inconsciamente è venuto anche da lì, perché io andavo a vedere quando registravano, spesso mi trovavo là e quindi questo è sicuramente una matrice, insomma. Come hai scoperto la musica? Che età hai iniziato? Guarda, Tanto io ho cominciato a suonare quando avevo 5 anni, ho studiato musica classica chiaramente, però il pianoforte per me è sempre stato un po' la mamma, un po' come il confessore, nel senso qualsiasi problema io avessi, qualsiasi emozione bella, euforica, ma anche nostalgica, il pianoforte era quella cosa che mi faceva tirare fuori tutto quello che avevo dentro. Quindi per me è stato all'inizio un gioco, perché io ci giocavo, facevo dei motivetti, mi inventavo delle fiabe con i suoni, le sonorità, quindi il suono grave era un orco, come il suono più acuto poteva sembrare una fatina, no? Quindi immaginavo delle cose sempre attraverso il suono. Poi chiaramente l'amore per la musica, tutta la musica, io non faccio distinzione tra jazz, pop, rock, cioè io distingo la musica in due. Le separo in due parti, una parte, cioè la parte della musica bella, la musica che ha una ricerca, che ha una profondità, e la musica brutta, quella di consumo, quella che è fatta così, senza cuore. E l'importante è avere il cuore nelle cose che uno fa e cercare di comunicare un po' di poesia, un po' di magia, che è quello che serve nella vita, no? Ecco, noi infatti abbiamo parlato anche durante questa lunga estate di Summertime con i musicisti. Io chiedo sempre questa cosa: perché non si fa più la musica un pochino di ricerca, no? Come dicevi tu, quella dei Pink Floyd con i brani che duravano 10 minuti, Non è, Emerson, Lake e ma Palmer. guarda, in realtà secondo me non è vero che non c'è la musica di ricerca. Il problema è che specialmente in Italia, purtroppo, ahimè, nonostante ci siano grandissimi musicisti adesso, forse c'è meno attenzione perché chiaramente è un mercato generale che punta sulle cose più semplici, e quindi no, sembrerebbe che non c'è nessun tipo di ricerca. Io, cioè, sicuramente fuori, non so, in Inghilterra mi vengono in mente i Radiohead, per esempio, i Massive Attack, che sono un gruppo che sicuramente al pari dei Pink Floyd hanno inventato delle cose, come Björk. Quindi ci sono delle cose, il problema è che noi magari poi il mercato ci offre una cosa e noi pensiamo che esiste solo quella roba lì, specialmente quella che esiste in televisione, no? E tutto il resto è un mondo, invece, cioè, non esiste un mondo oggettivo e non solo virtuale. Bisogna solo scoprirlo e avere la voglia e la curiosità di andare a ricercare delle cose. Le cose ci sono e si muovono, però ecco, appunto, bisogna essere curiosi. In scena fino a domenica 2 agosto al Globe Theatre di Roma, Fool, i comici in Shakespeare. Abbiamo sentito la regista Consuelo Barilari. Madalena D'Amico, in un testo che ha composto ricucendo insieme delle scene importanti dalle più famose e più divertenti opere shakespeariane, ha pensato di creare una struttura con Sogno di una notte di mezz'estate e Il carro e la compagnia dei comici artigiani, che in la quale, questa sarebbe la struttura del testo, ci stanno le scene prese da Molto rumore per nulla, Come vi piace, La bisbetica domata e Due gentiluomini di Verona. E ha creato quindi una, voglio dire, un plot, una struttura drammaturgica. I personaggi di questa compagnia dei comici non sono i cinque artigiani, ma sono cinque fool, i quali poi sono presi da loro stessi, da altre opere shakespeariane. E quindi, voglio dire, questi personaggi, come nel Sogno di notte e mezz'estate, vogliono mettere in scena Piramo e Tisbe, ma non ci riescono perché uno di loro fa le bizze e non vuole fare il muro, che è uno dei personaggi del copione di Piramo e Tisbe, e quindi incappano in altre scene di altre commedie shakespeariane. E si quindi potrebbe andare avanti all'infinito. Quindi è un rincorrersi. Quindi sì. Ecco, per i fatti, perché io leggevo i Fool, i comici in Shakespeare. Ora, per quanto mi riguarda, no, il Fool shakespeariano è una figura drammaticissima, no? Abbiamo sì. Il Fool in King Lear, il Fool in Amleto, che è Amleto stesso. Insomma, è un personaggio molto molto pesante, no? Perché è l'unico che dice la verità nei drammi shakespeariani, eccetera. Invece voi avete fatto un collage, un patchwork di tutte le commedie, quindi lo spettacolo è molto brillante. Allora, lo spettacolo non è divertente, è divertentissimo, nel senso che dopo l'ambientamento iniziale dello spettatore nel climax della commedia, ci ride sempre. Però ecco, io non sono d'accordo su una cosa, nel senso che credo che il Fool shakespeariano è vero, sia la realtà del Fool shakespeariano sia quella di un personaggio molto drammatico, perché è quello che coglie veramente nella follia la verità e mette a nudo il re. E quindi questo è il senso vero del Fool. Ma il Fool apparentemente, così come appare a una lettura superficiale e a una visione superficiale alla gente, è il buffone di corte, il jolly, il clown. E è vero che però può essere anche in Shakespeare stesso più drammatico o più comico, quindi qui sicuramente è preso nella sua vena comica, che però, hai perfettamente ragione, ha un fondo drammatico. Certo, però comica. Insomma, quando dice a Lear, no, Lear, diventasti vecchio prima di diventare saggio, insomma, molto comico non è. Però abbiamo capito. Non è, però lui vorrebbe essere comico, eh. Cioè, in quel momento il Fool vorrebbe alleggerire con un'assurdità. Summertime. Al Jazz Alleu, Casal Borgone, in provincia di Torino, si è esibito venerdì 31 agosto il pianista Stefano Battaglia. Ho sempre improvvisato sullo strumento anche da piccolo, pasticciando, non sapendo naturalmente cosa diavolo stessi facendo, però anche durante gli studi, come si dice, accademici, ho sempre avuto questo canale così un po' privato e intimo con la musica, completamente improvvisata e trovata lì per lì, e questo poi non l'ho mai abbandonato, e in definitiva probabilmente è proprio la zona privilegiata per me di contatto e dove sento il mio canale espressivo completamente vivo e libero. Allora, andiamo intanto al concerto di domani sera, Cantico della Noce Oscura, suite ispirata all'opera del poeta mistico Juan de la Cruz. Allora, e dice, in particolare gli studi riguardanti la conoscenza sperimentale di Dio. Allora, tu nella musica sperimenti e poi sperimenti anche la ricerca di Dio, questo è un po' il senso? Partendo così da un concetto che vede la musica come entità divina, cioè come espressione della bellezza sul nostro pianeta, oltre che come canale espressivo dell'essere umano, l'improvvisazione, così come la vivo io in alcuni concerti, tra cui appunto quello di domani, è un'esperienza di questo tipo dove si sperimenta in maniera spesso anche dolorosa questo ricongiungimento con le entità divine. Non ha niente a che fare con qualcosa di religioso, ecco, ma mi interessa molto riportare la musica ad un'esperienza esistenziale e non di diciamo intrattenimento o diciamo più superficialmente spettacolare, ma mi interessa molto, ecco, questa mettermi in gioco davanti alle persone cercando la musica lì per lì, e quindi c'è tutto questo processo di spossessamento di cui parla nel ciclo delle meditazioni appunto Juan de la Cruz, che mi sembra perfettamente proprio aderire al tipo di percorso che cerco di mettere in atto con l'improvvisazione tabula rasa, ecco come viene chiamata. Tra i musicisti classici, no? Viene un po' in mente Bach nella ricerca di Dio oppure no? Cioè ogni tanto ti ispiri e ti metti al piano e suoni le variazioni o no? Bach è un nome che mette veramente d'accordo tutti, musicisti, non musicisti, cultori, invece ascoltatori diciamo di passaggio. Credo che la grandezza di Bach sia essenzialmente legata al fatto che è molto terrena, appunto la sua musica è piena di ritmo, di danza, di senso a volte gioioso, a volte estremamente drammatico e mistico, a volte invece quasi sensuale, e quindi è come se fosse uno di noi, diciamo, ma probabilmente il migliore di noi, ecco. Sabato alle ore 21, Oriente d'Occidente a Rovereto, apre con Emio Greco, con Passione in Due, uno dei ballerini più innovativi della scena italiana ed internazionale. Bisogna anche passare da uno stereotipo che si è creato, forse che è cominciato a crearsi negli anni 80 e 90, in cui si pensava che la danza contemporanea era qualcosa di incomprensibile, che non aveva nulla, cioè passava soltanto per il cerebrale, e quindi ha finito per creare un po', allontanare anche il pubblico ad avvicinarsi a un'espressione che in realtà danza contemporanea significa una connessione con il tempo, no? Cioè con il tempo presente, che proprio perché è contemporaneo e proprio perché è un linguaggio contemporaneo crea dei codici e li distrugge, e non si fossilizza appunto su una forma definita, ma c'è comunque uno scambio e a volte anche delle emozioni molto forti che emergono, quindi il pubblico non deve essere spaurito dal fatto che non può connettersi, no? Che non può esserci emozione con la danza contemporanea. Tu, per esempio, no, in questo Passione in Due usi intanto le musiche di Bach e non magari le musiche dodecafoniche della danza, come dicevi te, quegli anni 80, no? E poi queste musiche di Bach sono poi addirittura eseguite live, quindi c'è una danza contemporanea con una musica classica che però è facilmente riconoscibile dal pubblico, quindi già li accompagni verso un'emozione, insomma Bach non è mai semplice, ma insomma verso un'emozione più possibile, ecco. È vero, sì, Bach non è mai semplice, però come hai fatto intendere, c'è una connessione immediata che si fa con la sua musica, che vogliamo individuare come autentica, spirituale, insomma ognuno può usare i suoi termini, però è proprio vero, cioè la contemporaneità è proprio questa, no? Cioè potersi proprio metterti in dialogo con delle forme a volte anche arcaiche o barocche